che c'è la Roma, è bello che c'è la Lazio e aspettiamo la Juventus. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ancora Medel, attenzione, zona tiro, Medel, prova la botta, rete, rete, che gol, Medel, incredibile, trentesimo, sorpresa nettamente, Szczęsny, Inter in vantaggio. Bueno, muy contento por el gol, por el triunfo. Era un partido muy importante, así que lo sacamos adelante y pudimos lograr estos tres puntos muy importantes acá en casa. È una squadra come una casa, se non fai le fondamenta crolla, quindi noi l'abbiamo fatta bene, la stiamo facendo bene, però sicuramente poi oggi era una partita, cioè non poteva finire 3-0, insomma giocava contro una grande squadra come la Roma, quindi insomma 1-0 ci poteva stare. Conta in chiave scudetto il fatto di giocare o non giocare le coppe? Io che devo rispondere a questa cosa? Noi lo dobbiamo giocare, è così, non c'è da dire meglio senza coppe o meglio con le coppe. Noi è il nostro compito, il nostro percorso, giocheremo di nuovo mercoledì e domenica di nuovo in campionato. Siamo all'undicesima, ci sono 5 squadre in un punto. Credo che sarà un campionato lungo, difficile e duro per tutti. Ciao a tutti, Giorgio Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Milano batte Roma 4-1 e sembra la revanche del calcio milanese. Io ancora non ci credo, tanto per dire. 800240024. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene. Il tempo molto bene, molto bene, molto bene. Oggi fai l'esordio, no? Sì, stasera. Bocca al lupo. Grazie, grazie amico mio. In realtà sai che si dice in un altro modo, no? Si dice in un altro modo. Poco radiofonico comunque. Poco radiofonico comunque. Spogliatoio su Gazzetta TV 21. Senti, no, è bellissimo. Guarda, io riflettevo e sì? Stasera noi di Chitaga cominceremo con una scheda di Terruzzi. Ci divertiamo come dei bambini. Cioè, tanto è noiosa, oziosa e inquietante tutta la polemica extracalcio con questa guerra di poteri e con ovviamente... Quale? Ti riferisci al Sciur Carlo? All'ennesimo caso Tavecchio, con tutti chiaramente, con tutti i dubbi. Ho letto una serie di articoli, devo dire, anche onesti da questo punto di vista, secondo me. Nel senso che da un lato ci sono le dichiarazioni ovviamente inaccettabili. Dall'altra c'è anche però insomma qualche stranezza, perché queste cose vengono fuori mesi dopo, perché c'è il giallo di questi soldi che sono stati richiesti e guarda caso poi improvvisamente c'è fuori questa intercettazione. Però ecco, nella sostanza ovviamente non sono accettabili nessuna dichiarazione di stampo ha coperto quasi l'intero arco istituzionale, sì, da tipo Ba alle donne handicappate agli ebreacci. Amico di tutti, non ce l'ho con nessuno. La sua promessa, ce l'ho con nessuno. Ma qui in questo, guarda, io sono perfettamente d'accordo con quello che scrive Sconcerti, per esempio. Cioè, non ci si può comportare come se si fosse al bar. È chiaro poi che alcune di queste dichiarazioni, la più grave secondo me rimane quella di Optipo Ba. Sì. Perché quella di Optipo Ba è una dichiarazione fatta in un contesto pubblico. E io ribadisco, questo è un concetto fondamentale attraverso il quale passa la democrazia di un paese, cioè la salvaguardia della differenza fra una conversazione privata e una conversazione pubblica ci deve essere, perché altrimenti la forma diventa totalmente sostanza in questo caso, e non dimentichiamolo mai. La cosa più grave, ci abbiamo fatto mesi di trasmissioni, era stata quella di Optipo Ba, perché in un contesto pubblico tu non puoi dire una roba come quella che hai detto, una roba assurda. E qui siamo invece in un ambito un po' diverso, Tavecchio parla di una manipolazione addirittura. Sì, un ambito che io ancora fatico a comprendere, però mi sembra tanto qualcosa di privato, non dico di estorto, mi ricordo un po' quelle frasi di Lotito, no? Certo, sto dicendo. Certo. Detto questo, lo scandalo c'è e chiaramente quelle parole sono inaccettabili, ma appunto per questo stavo dicendo l'esatto contrario, no? Che è talmente avvilente tutta sta roba che leggiamo fuori. E quanto è invece meraviglioso questo campionato. veramente meraviglioso. Io ho visto Perotti che si è presentato con la creatura lì di 5 mesi al campo, poi ho visto Mihajlovic che accarezzava suo figlio, che faceva raccattare per la Lazio. Ci divertiamo come bambini, perché è un campionato bellissimo, è un campionato secondo me come qualità anche buono fino a questo momento, e soprattutto è un campionato aperto che regala ogni settimana delle incertezza totale, incertezza totale. Poi, se posso aggiungere altri due elementi, diciamolo sottovoce e facciamo come De Laurentiis, cioè gli scongiuri, nessun problema fin qui, e sono passate 11 giornate intorno al calcio, e tutto sommato toni piuttosto pacati dal punto di vista arbitrale, anche se Sarri poi era aperto il dossier, ma ne parleremo. Fammi aggiungere questi due dettagli. Sì, ma assolutamente. No, ci sono mille temi. Ci sono mille temi proprio perché la settimana scorsa abbiamo detto benvenuti al Sud. Sì. Oggi ci sarebbe da dire bentornati a Milano, insomma, nel senso che sicuramente Inter e Milan sono le due grandi notizie di questo weekend. Il Milan, tutte e due sorprendenti, per motivi diversi. Il Milan fino alle 20:44 di ieri sera era una squadra in crisi, che sembrava, insomma, ormai rassegnata a un destino cupo e malinconico. Oggi è qualcosa che non si capisce bene cosa sia, cosa possa essere, cosa possa diventare a breve. Insomma, è una squadra che ha giocato la sua miglior partita stagionale. Appunto, però il Milan visto ieri sera si lascia pensare che possa lottare per la Champions League. Sì. L'Inter, l'abbiamo detto mille volte, lo ripetiamo, però dopo la partita di sabato c'è un'ulteriore legittimazione. L'Inter è lì, sono passate 11 giornate, gioca male da un punto di vista resto d'accordo, o meglio, con gioca te in maniera esteticamente brutta, ma in maniera molto efficace. Sì, ha subito, di fatto, se tu levi Inter-Fiorentina, quindi se togli quella partita lì, ha subito 3 gol in 10 giornate. Sì. E mi rimane quel dubbio lì sul fatto che non è praticamente mai passato in svantaggio, l'ha fatto soltanto con la Fiorentina e contro la Samp quando ha reagito. Poi per il resto la statistica dice che nel primo tempo dell'Inter per 5 volte è finito 0-0, per una volta 0-3 con la Fiorentina, e sappiamo com'è andata poi la storia, e ha segnato per la prima volta nel primo tempo proprio contro la Roma. 1-0 nel primo tempo è stata la prima volta in cui ha segnato, però non subisce mai, miglior difesa del campionato, non ha subito reti in 7 partite su 11, insomma i numeri sono dalla parte di Mancini. Io continuo a pensarla come te, e cioè metto l'Inter tra le principali outsider, metto Inter e Fiorentina tra le outsider, il Milan, sul Milan non ho ancora una collocazione. Continuo a pensare che Roma e Napoli siano le due squadre migliori di questo campionato, ma sono solo opinioni, aspettiamo le vostre. 800240024, numero verde traffico. Attenzione, non è male! Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Convocati. Ma non lo so se è stato il miglior Milan, però sicuramente è stato Milan che in questa partita ha dimostrato un spirito di squadra, quello che si sta cercando, perché tutti quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati, vorrei fare complimenti soprattutto a loro, a parte tutti 11, ma a Andrea Poli, a Kecky, a Filippi, quando sono entrati sicuramente ci hanno dato una grossa mano. Questo avrete capito, era Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria lampante ieri sera all'Olimpico di Roma. Mentre saluto Andrea Sorrentino, ciao Andrea da Repubblica, ciao. Ciao a tutti, ciao. Vorrei sgombrare il campo dal solito equivoco anche a nome di Pierluigi Pardo. Tu sai, Pierluigi, che oggi nei prossimi giorni verremo sommersi da messaggi telefonati tifosi della Fiorentina, perché non parlate della Fiorentina, perché non ne parleremo con tutto il piacere del mondo. C'è chi scrive: perché voi giornalisti avete paura di intervistare il presidente della Fiorentina Diego Della Valle, un uomo senza peli sulla lingua? Diego Della Valle è invitato in questa sede 365 giorni l'anno, Natale, Capodanno compreso, è invitato a Tiki Taka stasera stessa. Tiki Taka, allo spogliatoio, a tutto. Io veramente, guardate, io... Però fai bene a sottolineare questa cosa qui, devono sapere, cioè è giusto spiegare anche le cose, noi no? passiamo le nostre vite a fare anche delle cose molto divertenti, facendo il lavoro più divertente del mondo, e ringraziamo Dio di questo, però le mie settimane passano per una serie di continui messaggi a società di tutti i tipi, per esempio posso dire che ho provato a contattare Donadoni per stasera, ma non ma verrà presto. Ho provato a contattare la Fiorentina, ma probabilmente non ce la facciamo neanche oggi. E cioè è così. Io stasera, ma magari. Magari, posso, magari posso, devo andare, eh. 50 euro vanno bene, se li regalo, se mi porti Paolo Sosa stasera, o anche Della Valle, o anche Baba Har, cioè veramente. O Bernardeschi, o chi vuoi te. In generale, siccome ripeto, noi siamo credo onesti, diciamo che i giornali nazionali sicuramente hanno uno share, cioè una percentuale di spazio che è dedicata soprattutto a. Che è proporzionale, per cui della Fiorentina si parla più del Chievo, ma meno dell'Inter, del Milan e della Juve. E questo è un dato di fatto oggettivo, il che però secondo me non deve inficiare il giudizio. Cioè, secondo me la prostituzione intellettuale, come direbbe Mourinho, c'è se uno parla male per forza di una cosa perché certo, è malafede. Ma certo, questo è un caso, scusate, che non credo che esista mai. La Fiorentina fa un calcio eccezionale, leggendario, straordinario. È in cima alla classifica. È in testa alla classifica, sicuramente. Se prendi i giornali nazionali e le televisioni nazionali, si parla più di Inter che di Fiorentina. Sono d'accordo su questo. In questo hanno ragione gli amici da Firenze, ma non sì, non è un fatto di. È un fatto proprio oggettivo no, poi, di, poi, di bacini d'utenza. Rivolgiamo un appello a tutte le società: ci dessero una mano, ma noi, microfoni, telecamere, tutto aperto e tutti i giorni, torno a ripetere. Andrea Sorrentino, ma la revanche del calcio milanese è un ologramma o è la realtà? Ma no, è una realtà, perché poi noi ci dobbiamo basare su quello che accade giorno per giorno sotto i nostri occhi. Poi nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere a marzo come saremo messi. Ma Milan e Inter sono due squadre che in questo campionato possono recitare un ruolo. Arrivandoci poi per percorsi molto diversi, quasi opposti, l'Inter ad esempio cambiando sempre squadra e avendo quasi soltanto stranieri, il Milan adesso invece ha trovato una sua fisionomia nelle ultime quattro partite, gioca sempre con gli stessi e giocando sempre con gli stessi ha trovato una continuità. Certo, ma vuoi vedere che sia quello il segreto di Pulcinella? E tra l'altro sempre con una base italiana solidissima, ieri anche ce n'erano 8 su 11, quindi no, il segreto di Pulcinella, Carlo, è semplicemente il Milan nelle ultime partite ha giocato con un regista di ruolo che è Montolivo, due mediani ai fianchi che sono Kučka e Poli o Bertolacci, due ali vere che fanno le ali di mestiere, cioè Cerci e Bonaventura, e un centravanti che la mette dentro. Sì. È una cosa abbastanza semplice. Poi ieri sera ha incontrato anche un avversario secondo me in disarmo, la Lazio, sì, Lazio preoccupante, però arrivava da nove vittorie consecutive in casa, meglio di tutti in Europa, meglio anche del Bayern di Monaco, come ruolino di marcia. Sì, però guardiamo anche gli avversari che aveva affrontato la Lazio in casa finora, erano tutte squadre della parte destra della classifica. Appena incontrato un avversario di un certo qual valore, La Lazio è una squadra che prende gol grotteschi da settimane, da mesi, quindi secondo me c'è un allarme. Sì, però, attenzione, perché la Lazio fino al 75esimo della partita di Bergamo, quella immediatamente precedente, era in corsa a meno 2 dalla Roma, in quel momento c'era la Roma in testa alla classifica, cioè aveva i punti dell'Inter, quindi io pure sono rimasto abbastanza sconvolto dalla prestazione della Lazio di ieri sera, che ritengo la peggiore, forse la peggiore è stata a Napoli, ma insomma siamo lì con la partita di Napoli. E anche col Chievo, insomma, c'è una squadra di alti e bassi, però che c'è... vive sulle montagne russe, non è facile. Guarda che ne prende di gol assurdi da mesi da Lazio, sì, anche fuori De Vrij, che è il miglior difensore centrale che ha, questo detto per la cronaca, però le assenze ce le hanno tutti, bla bla bla bla bla. Questo per puntualizzare. Però comunque un bel Milan, dai. Un bel Milan. Ma scusa, Pierluigi, chiedo anche a te. Allora, questo Milan delle tre vittorie consecutive è nato nel giorno in cui Mihajlovic rischiava nettamente la panchina. No? Certo. Prima della partita con Sassuolo era più fuori che dentro. Lui cosa fa? Toglie Diego Lopez per motivi tuttora misteriosi, ma ho la sensazione che sia quasi un capro espiatorio. Mette in porta un ragazzino di 16 anni, come per dire... Io, guardate, mi sto rischiando la panchina, non guardo in faccia a nessuno, faccio questa mossa. Da lì ha battezzato 11 giocatori, ha battezzato un sistema di gioco e mi sembra quasi normale e fisiologico che in queste condizioni la squadra cominci a crescere. Sì, Sì, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Io penso che, allora, per quanto riguarda il Milan, quello che dice Andrea è decisivo. Cioè, finalmente si è trovata una quadra, finalmente si è trovata un'idea di gioco, degli interpreti che sono gli stessi, che non sono eccezionali, anzi eccezionali come direbbe Picci, ma sono comunque di livello, perché il Milan, insomma, sinceramente non è per me la squadra più forte d'Italia, ma è una buona squadra. Sì. E poi succedono cose a volte anche sorprendenti, nel senso, io sono per esempio abbastanza convinto che Mexes possa essere l'uomo in più della difesa del Milan. Sono d'accordo. Mexes, quando è in condizione, voi direte, ma quando è in condizione dal punto di vista psicologico, se riuscisse a trovare un po' di continuità, secondo me è ancora il migliore che ha il Milan in quel tipo di ruolo accanto a Romagnoli. Può essere anche perfetto per far crescere per proteggere Romagnoli, esatto. Quasi Cerci, facesse la guardia del corpo. Sì. Cerci ha dato dei segnali incoraggianti. Bonaventura sta diventando un leader vero di questa squadra, il migliore in campo anche ieri. Bacca è una certezza, insomma, tante piccole cose si stanno sistemando. Anche Montolivo, che è un giocatore con degli alti e bassi, ieri però ha fatto una buonissima partita, e in generale, insomma, è un titolo che sta crescendo, per usare un gergo azionale. Quindi sì. No, il Milan di ieri in effetti apre degli spiragli e degli scenari abbastanza difficili da prevedere, sì, no? Sì. Perché fai fatica a inquadrarla. Deve sistemare la difesa. Se sistema la difesa, il Milan può salire, è tutto lì. Sì, l'Inter è un'azione molto alta in questo momento come prezzo, molto logica. Faccio fatica a vedere un ulteriore margine di miglioramento per questa squadra dal punto di vista della classifica. Penso Della classifica, del gioco certamente, però, Piero. Sì, ma sicuramente. Ma anzi, forse poi, guarda, è quella che ha maggiori margini. Far giocare male gli avversari nel calcio, come anche negli altri sport, è un pregio. Non è un dettaglio, eh. No, è un pregio anche, non esempio, da poco, eh. No, ma è una caratteristica. Tante volte noi tendiamo, ma giustamente perché siamo appassionati, tendiamo a scambiare la qualità estetica, quindi la bellezza, con l'efficacia, che sono due categorie dello spirito completamente diverse. È chiaro che il Napoli di Sarri nelle sue migliori prestazioni, o la Roma nelle sue migliori prestazioni, gioca un calcio infinitamente più bello e più divertente di quello dell'Inter, ma l'efficacia è un'altra cosa. E nell'efficacia l'Inter fino a questo momento è stata perfetta. Dubbio ce l'ho se va in svantaggio, perché questa cosa è successa rarissimamente, merito dell'Inter, per carità, però ecco, in quelle situazioni lì è da verificare, non è ancora successo se non contro la Fiorentina, e sappiamo come è andata, esatto, con la Fiorentina e con la Fiorentina, e sappiamo come è andata a finire. Andrea, l'Inter è una a sostanza, l'Inter... consistenza. Inter, poca eleganza, è uno di quei maglioni ruvidi che ti proteggono dal freddo ma con cui non puoi andare al party al momento. L'Inter aveva un problema di fondo da risolvere, e che era stata poi la sua dannazione negli ultimi 3 anni, quello di sistemare questa benedetta difesa, che era un colabrodo, e anche lì si prendevano dei gol drammatici da anni, e quindi Mancini ha iniziato a lavorare da lì, prima prendendo dei giocatori bravi per la difesa, e cioè Miranda su tutti, che è un difensore di valore internazionale, non a caso è diventato in breve il capitano della nazionale brasiliana. Poi Murillo, poi gli ha costruito intorno una squadra brava in copertura, c'è stato un grosso lavoro estivo da luglio sulle coperture difensive, e adesso loro sono a metà della costruzione della squadra, hanno messo le fondamenta, hanno trovato la copertura difensiva, stanno trovando i risultati, adesso il Mancio deve trovare anche un po' di brillantezza offensiva, e da qui poi tutti i suoi cambi di formazione continui, di assetto, di uomini, sei diversi contro la Roma rispetto a Bologna, sei diversi a Bologna rispetto alla precedente di Palermo, lui sta ruotando moltissimo per cercare la brillantezza offensiva. Secondo me prima o poi la troverà. L'esclusione di Icardi contro la Roma è stato un segnale ciclopico al gruppo, e quindi secondo me la costruzione comincia a dare dei frutti. Secondo me l'Inter fatica ancora contro le squadre piccole, perché non riesce a essere brillante in attacco, mentre invece contro le grandi avversarie anche il Mancio dà una carica in più, insomma c'è tutto un atteggiamento diverso. Infatti adesso il rischio dell'Inter saranno le prossime due partite contro Torino e Frosinone, prima di Napoli-Inter, che poi sarà la vera prova del 9. 30 novembre. Certo, grazie Andrea, a presto. A voi, ciao. Auguri, grazie. In bocca al lupo, grazie. Ma invitalo Sorrentino qualche volta. No, per carità. Facciamo la settimana te. Declina sempre, Sorrentino. Ciao a tutti. Dobbiamo capire, aspetta, c'è in linea ancora Andrea? Andrea? Sì, Andrea. Sono qui. No, va capito Andrea, perché da quando ha cominciato a mettere il faccione, sì. So benissimo che insomma, è diventato il sogno erotico di intere generazioni di donne italiane. Questo lo so anch'io. Questo è fortissimo, siete è una condizione che io e Cetta viviamo da anni, è una cosa che può creare dei problemi, quindi è chiaro, questa ritrosia io me la spiego così. Ah, vabbè, sì, no, ma non avevo dubbi che fosse così, Pierluigi. Non volevo dirlo io, grazie di averlo sottolineato. Mi diverte questa gag con Sorrentino, una gag completamente inutile. Diverte tutti. Mi diverte. Borsa ragazzi, a casa mia, borsa. Ciao. Ciao. Tira secco di Florenzi, Andanovic, Salah, Andanovic due volte, tre volte, quattro volte, incredibile! Andanovic, quattro parate, eccezionale! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si ricomincia! Convocati. Occhio Alessandro, poi Cuadrado, è il gol del 2-1 al 94esimo, come un anno fa, da Pirlo a Cuadrado. Ancora Medel, attenzione, zona tiro, Medel, prova la botta, rete, rete, che gol, Medel! Fernandez la mette dentro, la deviazione è di Gonzalo Rodriguez, è 2-0 Fiorentina. Brutto piattone di Kishna, regala il pallone a Bonaventura, è scattato Bacca, palla in verticale per il colombiano, Bacca davanti al portiere, Bacca porta vuota, Bacca e la cala il sipario, il Milan va sul 3-0 al 34esimo, Bacca sotto il settore dei tifosi rossoneri. Rapido riassunto tanto per rinfrescare la memoria. Pierluigi Pardo collegato, Michele provincia di Comune. Contagio dalla mia voce, però va bene, lo accetto. Non ho capito. Ma no, scherzando, dai. No, io ho fatto Lazio Milan, questo sì. Era un mezzo Sky, mezzo media, proprio perché noi abbiamo questa Pax televisiva, no? Sì, Pax televisiva, melting pot, chiamate come vuoi. Noi abbiamo essenzialmente questa cosa che andiamo a cena tutti insieme, quindi poi c'è questa cosa che dovremmo raccontare prima o poi, no? Perché si leggono insomma, le strategie, le aziende, ecco, poi sto che vanno continuamente a cena insieme. E detto questo, no, da dove ripartiamo? Dalla Juve? Ripartiamo da aspetta, ripartiamo da Michele e Pierluigi, che sono lì da un po'. Ci hanno ascoltato chiacchierare amabilmente con Sorrentino. Ci odieranno eccetera. Adesso. Partiamo da Michele. Ci odiano, signor sì. Michele. Non lo so se ci odiano. Michele ci odia. Pronto? Buongiorno, ci Pronto? Odia? Pronto, Michele? Grazie della convocazione. Ah, grazie a lei. Dica. Niente, io volevo. Come niente, non si butti giù. Scudetto è un tabù ancora per il Milan o con quello che abbiamo visto ieri si può pensare veramente di vincerlo davvero? Secondo me deve essere tabù in questo momento per il Milan. Adesso una settimana fa contestazione feroce, Mihajlovic a rogo insieme a Galliani, tanto era Halloween era vicino, via tutti, via Berlusconi, via tutti quanti, tutti i giocatori insieme. Passa una settimana, è vero, passano tre vittorie, ma scudetto mi sembra troppo. Adesso, Sì. Siamo i bravi. Ma poi sai, come dicevamo prima appunto, qui cambia tutto da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, quindi è ovvio che siamo in una condizione, il calcio è liquido, qui è proprio diventato aeriforme, nel senso che veramente è vapore acqueo, nel senso che ogni settimana, ogni partita cambia tutto. Certamente mi hanno visto ieri, lascia pensare a possibili progetti importanti, questo non c'è discussione. Le distanze da un punto di vista numerico sono possibili, ovviamente, sono possibili per tutti, per tutte, per la Juventus assolutamente, quindi bisogna secondo me concentrarsi sul valore complessivo delle squadre nel medio-lungo termine. Io penso che il Milan appunto non sia quello di qualche settimana fa, delle partite precedenti, ma non sia neanche una squadra da scudetto, quindi io penso che l'obiettivo adesso debba essere quello di crescere pian piano e, sì. E poi si vedrà, ma non penso che ci siano squadre più attrezzate, una su tutte secondo me è il Napoli. Napoli, Roma, Inter, Fiorentina in questo momento davanti al Milan certamente secondo però me. Però certo, è un campionato corto, in questo l'ascoltatore ha ragione, sì. La classifica è molto corta, è per questo che autorizza pie quindi... illusioni, no? Questa è una pia illusione dei tifosi milanisti. Dal punto di vista dell'organico, il Milan non può inserirsi in questa corsa, né al momento né credo dopo, a meno di rivoluzioni, rivoluzioni sul mercato. Vediamo come si arriva a gennaio, sì. Non dimentichiamoci uno come Menes. Insomma, io ripeto, credo sia un outsider, però voglio fare ulteriori... Dopo la partita di ieri credo sia necessario fare. Servono altre verifiche. Pierluigi Como, buongiorno. Buongiorno, signor Cienza. Senta, io mi collegavo al discorso che ha detto prima il signor Pardo Pierluigi. Quale dice l'efficacia dell'Inter? Dice dell'efficacia dell'Inter, la trovo corretta questa riflessione. Certo. L'Inter perché, se lei si ricorderà sicuramente, c'era un certo Boscov che diceva meglio vincere 5 partite 1-0 che una partita 5-0. Sì, lo diceva anche Catalano, credo, no? Questo. Ma poi c'è anche un'altra cosa da dire, che l'Inter ha vinto molte partite senza brillare e quindi anche probabilmente senza spendere delle energie clamorose. Bologna-Inter è stato un esempio. Bologna-Inter è stata una partita bruttissima, è vinta su un errore difensivo del Bologna, giocata male dall'Inter secondo me. Insomma, se l'Inter ha e ce l'ha sicuramente l'ambizione di essere una grande squadra, non si può essere soddisfatti della qualità del gioco mostrata a Bologna. E però sono arrivati 3 punti, e come quella partita lì ce ne sono state altre. C'è stata quella col Verona, sì, c'è stata quella con l'Atalanta, c'è stata quella col Carpi. Insomma, tante sulla stessa falsa riga. L'Inter vince sempre con un gol di scarto. L'ultima vittoria, cito a memoria, l'ultima vittoria con più di un gol di scarto è aprile, quindi campionato scorso, a Verona. Sì. Vittoria per 3-0. Quindi questo ti dice molto. E quindi è possibile anche che magari oggi, se guardiamo il serbatoio delle energie rispetto a squadre più brillanti, ad esempio il Napoli, ci sta che l'Inter abbia speso di meno. Io penso in assoluto che abbia qualcosa in meno rispetto a Napoli e Roma, però certezze non se ne hanno e c'è ma è bello così e ci piace un sacco un così. Applauso Mancini. Certo, io saluto il nostro amico Gianni De Biasi, ciao Gianni! Ciao Carlo, ciao. Come va? Luigi. Stai ancora festeggiando, facendo i caroselli? Gli hanno ritirato il passaporto, ho letto. No, basta con queste con questi luoghi comuni del festeggiare, ormai i festeggiamenti sono messi da parte, sono stati anche brevi per me sinceramente, però siamo già proiettati su altri obiettivi. Hai fatto già i sopralluoghi per l'europeo? Che si fa a questo punto? Si vanno a vedere una i campi? Sì, una parte l'abbiamo fatta, abbiamo visto la parte nord della Francia, alcune belle situazioni, adesso aspettiamo il 12 di dicembre che c'è il sorteggio e poi andremo a sapremo anche il girone, quindi avremo più facilità nel focalizzare qual è la logistica migliore per noi. Ma qual è la cosa? Scusa, adesso poi parliamo di altre cose, però portaci un po' nei meandri, portaci nello spogliatoio, come direbbe il professor Genta, che stasera esordisce con questo titolo su Gazzetta TV. Vedi che faccio un cross promotion. Grazie. No, che cos'è da un punto di vista del CT? Qual è la cosa più importante in questi sopralluoghi? La distanza. No, bravo, Pierluigi, per me la cosa fondamentale è uno, l'hotel che non sia in una situazione incasinata e quindi possibilmente un hotel in un parco dove è facilmente anche difendibile dall'agguato dei nostri tanti tifosi che avremo, e il campo vicinissimo all'hotel, e l'altro è avere un aeroporto nel giro di 10 minuti di pullman, non di più. In Francia ci sono queste opzioni, ci sono queste opportunità, perché credo che la logistica rivesta un ruolo fondamentale, importantissimo nell'economia esattamente di un torneo europeo. Non devi bruciare energie inutili. Non devi bruciare energie inutili, no Gianni? No, esattamente, perché il problema principale è quello di cercare di non spendere l'energia nei viaggi, di avere la possibilità di rientrare immediatamente oppure il giorno successivo alla partita, se giochi alla sera alle 20:45 o 21 che sia, non è che puoi rientrare magari la sera stessa se hai distanze da colmare, quindi è preferibile andare a fermarsi a dormire il giorno dopo si rientra. Però se giochi invece alle 3 del pomeriggio, alle 18, allora la situazione è diversa. Sono curiosità un po' guaieristiche, no? Però sì, secondo me sono appassionanti anche per i nostri amici appassionati, perché scoprire come si prepara una spedizione. Per esempio ci sono i fanatici del ritorno, per esempio in Champions League, del ritorno dopo la partita, ci sono gli allenatori. Sì. Io, guarda, su quello c'è da verificare un sacco di aspetti. Uno, la distanza, quanto dura il volo e tutti queste cose. Se tu arrivi alle 4 e mezza, 5 della mattina, è un disastro, secondo me, perché tu il giorno dopo l'hai buttato via. Credo che sia molto meglio, dal mio punto di vista, stare a dormire lì, anche se dopo le partite i giocatori fanno fatica a dormire, però la mattina successiva magari faccio una piccola sgambata dove sono e il pomeriggio viaggio. Quindi quel giorno lì l'ho adoperato per la fase del recupero. Dopodiché tu vai di nuovo a dormire, il giorno dopo ti ritrovi. Credo che hai guadagnato tempo e questi aspetti qua sono, secondo me, decisivi, fondamentali, specie per squadre di vertice che giocano il sabato, il martedì e la domenica, o quelle che giocano in Europa League il giovedì. Ha risparmiato un sacco di energia in quel modo. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Gianni, sta lì. Stai con noi, torniamo subito. Bene, molto bene. Il Trapp apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Tutti convocati. Visto dal campo e visto da qui, questo è rigore e espulsione. Okay, se fischia rigore deve fischiare anche l'espulsione, perché Higuain è il netto vantaggio, è solo davanti alla porta, quindi c'era anche l'espulsione. Però al di là di questo, poi considerazione globale è che noi siamo la squadra che ha giocato più palloni in aria di tutto il campionato e siamo una delle poche non ha mai avuto un rigore a favore. Quindi questa è una stranezza dei numeri e speriamo che poi i numeri si riequilibrino a breve tempo. Già, speriamo. Parlavamo di un campionato fin qui, 11 giornate relativamente tranquillo sul fronte arbitrale. Primo dossier arbitrale, Gianni De Biasi, aperto da Sarri perché accanisce un effesso, anche se è l'ultima arrivata ad allenare una grande squadra. Ieri Pardo mi diceva giustamente, sta imparando a allenare una grande squadra. Ma io credo che lui si sia calato molto bene in questa nuova realtà e lo abbia fatto con intelligenza, senza entrare a gamba tesa da nessuna parte. Ieri per la prima volta ha fatto questa uscita, ma è frutto, secondo me, di un momento particolare, di una frustrazione probabilmente dettata da una squadra che ha dominato per larga parte la partita, che ha avuto le sue occasioni, che non è riuscita a concretizzarle. Stranissimo, perché questa è una squadra che ha fatto tantissimi gol, è il terzo attacco del campionato di Serie A e la seconda difesa. Con questi numeri qui credo che si vada avanti fortissimamente. Ieri ho avuto modo di parlare in diretta con Reina e gli dicevo quali differenze notava tra il Napoli della passata stagione, o di quando c'era lui ovviamente, e quello di oggi. Oggi è una squadra che difende da squadra e che ha un'attenzione particolare alla fase difensiva. Io credo che i risultati nascano da una grandissima attenzione a non prendere gol dietro, e lui da questo punto di vista qui ha preso un gol in meno dell'Inter, che ne ha preso 7 soltanto, sì, ma sì. Come faceva vedere giustamente Pardo prima, è una squadra che segna con il contagocce l'Inter, mentre il Napoli è una squadra che ha fatto tantissimi gol. E d'altra parte ha l'attacco migliore della Serie A, e su questo non penso ci possano essere discussioni. E poi no. I gol li ha presi nella prima giornata, perché sì. Prende due gol con Sassuolo, due gol con la Samp, due gol con l'Empoli. Cioè, da quando cambia modulo e da quando praticamente le gambe cominciano a correre in maniera un po' diversa, questa è una squadra che non prende più gol. È vero, è il potenziale davanti, come dicevate voi giustamente. Ieri ha ruotato gli esterni, li ha cambiati entrambi, ha tenuto Higuain per tutta la partita, ha cercato un po' di buttare dentro energie fresche e anche giocatori che potevano essere più difficilmente marcabili dall'altra parte. Io credo che complice anche il campo disastroso, e si lamentava lui dopo la partita, di Marassi, si sia visto magari meno spettacolo di quello che poteva vedersi sul terreno di gioco, e si sono visti degli infortuni, 3 per il Genoa, 3 infortuni muscolari. È clamoroso, secondo me, perché non credo che siano casuali, ma siano probabilmente figli di un campo che è tenuto in maniera disastrosa. Sì, questo è giustissimo sottolinearlo, perché poi parliamo dei troppi impegni, la preparazione, del freddo, però bisogna sottolineare anche questi aspetti. Non ha torto Sarri, forse, quando dice questa cosa? È mancato qualcosa rispetto alle ultime uscite, cosa ne pensa? Ci è mancato un pizzico di culo, è evidente. Secondo me abbiamo fatto una delle migliori partite in una situazione difficile contro un avversario aggressivo su un terreno di gioco in cui non si può giocare a calcio, è palese, però in Italia questo non lo considera nessuno. A me mi sembra strano se continua a permettere di giocare partite importanti su questi terreni, però nonostante questo abbiamo creato tantissimo e concesso poco. Questo è vero, analisi condivisibile. Certo, lui si può lamentare del rigore non dato contro Higuain. Io mi lamenterei anche del gol sbagliato da Hamsik, che è stata una cosa da mani nella cresta nel caso di Hamsik. Gianni, io ho una curiosità da chiederti invece. Questa storia dei cambi punitivi, cioè Insigne ieri non ha giocato evidentemente per il suo comportamento dopo la partita di mercoledì. Icardi ieri non ha giocato, sabato non ha giocato, chiaramente per quelle dichiarazioni, ma se mi danno la palla il gol lo faccio. È una lezione ai giocatori, imparate a stare al mondo e a pedalare. Guarda, è una lettura questa, l'altra potrebbe essere legata a un momento particolare di un giocatore che non sta rendendo al 100%, l'allenatore decide di sostituirlo, però credo che sia anche un bel messaggio che l'allenatore dà al gruppo, che nessuno è insostituibile, che più che chiacchierare bisogna essere in questo caso qua, pedalare e giù la testa e cercare di chiacchierare un po' meno a livello pubblico per salvare la propria immagine. Credo che ci sia un modo solo per farlo, lottando su tutte le palle e far gol per gli attaccanti, per gli altri. Tu preferisci avere un giocatore incazzato, come diceva Sarri o diceva anche De Laurentiis a questi microfoni l'altro giorno, e quindi voglioso di riscatto, o qualcuno che invece riesce a capire le situazioni? Beh, io credo che l'intelligenza non guasti mai, e credo che sapere che ci sono degli altri compagni di squadra che stanno in panchina e che insieme a te e ti applaudono in campo, e tu quando esci fai quello che non la prende bene, credo che non sia, sì, è intanto una mancanza di rispetto con questi ragazzi. Sì, sono d'accordo, grazie Gianni. È chiaro che poi giudichiamo spesso con la lente del risultato, però col senno di poi e con il risultato positivo, insomma, l'esclusione di Icardi da parte di Mancini per esempio è stato un capolavoro, perché Mancini vince la partita, c'era anche una componente tattica secondo me importante per la scelta di non avere una prima punta centrale, che era quella di non dare punti di riferimento alla difesa della Roma, ma esce secondo me dal punto di vista del rapporto con tutto il gruppo così rafforzato da una cosa del genere, cioè lancia un segnale ai naviganti, importanza clamorosa. Quindi quando non sempre si riesce a fare una scelta così impopolare, così coraggiosa, ed avere anche il risultato dalla propria parte, ma quando ci si riesce, come nel caso di Mancini l'altro giorno, e in generale come sta facendo bene Sarri, io credo che la leadership nei confronti del gruppo aumenti, e come. Sì. Pier, ti saluto, ti lascio andare a tiki-taccheggiare. Io tiki-tacca, tu. Fra l'altro possiamo anche dire che, insomma, per i nostri amici appassionati c'è la possibilità di fare la serata perfetta, no? Perché tu cominci alle 21. Dalle 21 alle 23. 21 vi guardate Genta, poi a quel punto vi spostate su Italia 1, vi guardate un po' di Iene, durante la pubblicità si guarda, i commerciali, però se dovete andare in bagno ci andate un secondo, vi fate un birrino, quello che volete, va bene, e poi partiamo anche noi. Chi c'è? C'è, stasera facciamo un bar esagerato, c'è, vabbè, di personaggi, c'è Bettarini, c'è Umberto Tozzi, che non tutti sanno che era un grande, insomma, era un calciatore promettente, grande cuore granata. E poi stasera facciamo veramente Mughini, Liguori, Ordine, Ciccio Valenti, facciamo proprio, perché questo è il campionato di tutti alla fine. Hai ragione. E quindi stasera, insomma, tutte le squadre top saranno compresa la Fiorentina, Fiorentina dando una risposta dalla dottoressa Turra, la quale voglio un bene dell'anno. Amici miei tutti di Firenze, vi vogliamo un mondo di bene, stiamo lavorando per voi. Fiorentina gioca benissimo. Ribadiamolo senza se e senza ma, è quella secondo me assieme a Napoli che gioca il miglior calcio, e la Roma in alcuni momenti è su quel livello lì da un punto di vista estetico, parliamo di estetica. L'efficacia invece è di altre squadre. Grazie Pier. Ciao. A domani. Ciao. GR, torniamo subito. 800 24 00 24, il numero verde. Ma a livello grazie, di... arrivederci a tutti, grazie. Ma che fretta. Ciao Roberto. Deve scappare. Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Saramini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Palla ai convocati, subito, 800240024, Mario da Verona, buongiorno, poi c'è Maurizio da provincia di Novara. Mario? Buongiorno a voi. Buongiorno. Dunque, l'ultimo collegamento è stato, diciamo, era piuttosto amichevole tra tutti. Adesso volevo non una polemica, però mette un po' di pepe sulla discussione. Ma sì, ma tutto, quello, ma tutto quello che vuole. Rispetto di tutti, perché... Ma ci mancherebbe, tutto quello che vuole, siamo qui apposta. Dunque, intanto sono un tifoso della Fiorentina e volevo dire che la Fiorentina e noi tifosi non è che ci dà fastidio che parlate poco della Fiorentina, ma a me perlomeno dà fastidio che spesso vengono incensate le altre squadre per certe prestazioni, certe situazioni, che poi se uno va a vedere bene tra le righe non è che poi sono tutte non è tutto oro quelle che riduce. Per esempio, prima il suo collega parlava dell'Inter che aveva assistato la difesa e quindi questo è innegabile, no Mario? Su questo che abbia assistato la difesa? Beh no, perlomeno mi sembra più che la difesa abbia assistato Andanovic, perché se ne aveva partita col Bologna c'è stato praticamente una torretta del Bologna con cui ha segnato l'Inter. Poi all'ultimo minuto ha salvato sulla riga. Sì. Poi ha salvato sulla riga Andanovic. Con la Roma ieri ha parato Mario, anche l'aria che volava. Mi sembra la stessa cosa. Mi sembra un po' riduttivo, però Mario, dire la difesa dell'Inter sta in Andanovic, perché Andanovic è vero, quando ha steccato l'Inter ha perso brutto e lei sa a quale partita mi riferisco. Però mi sembra riduttivo dire Andanovic è un grande portiere. Mi sembra riduttivo però dire che ha assestato Andanovic. L'Inter ha assestato l'intera fase difensiva, non soltanto la difesa. È una squadra che subisce pochissimo, che quando va in vantaggio e il golletto lo trova, perché i giocatori di talento li ha, poi ti impacchetta ed è difficile da superare, ed è difficile uscire da quella colla fatta di muscoli, fatta di grande attenzione tattica, di agonismo. Se poi lei mi dice preferisci vedere una partita dell'Inter, una partita della Fiorentina, io mi guardo una partita della Fiorentina tutta la vita perché mi diverto di più, ma stiamo sempre parlando di estetica. Io mi auguro che la Fiorentina vada fino in fondo, la metto alla pari dell'Inter, alla categoria outsider, perché per me le favorite rimangono Roma e Napoli, nonostante in questo turno abbiano raccolto un punto soltanto in due. Quindi questo è il mio pensiero, senza screditare nessuno. Anzi, la Fiorentina ha pure un altro merito che abbiamo sottolineato diverse volte, è stato quello di uscire dalla mini crisi in cui si era infilata, e lo ha fatto nel modo migliore possibile, tenendo i nervi a posto, senza dichiarazioni roboanti, senza problemi di spogliatoio in nessun caso, e adesso ha ripreso la sua marcia, che l'ha riportata lì dov'è. Io continuo a pensare che sia poco profonda per vincere lo scudetto, ma è un pensiero mio. Adesso sta recuperando anche quello che sembrava il grande acquisto estivo del calcio italiano, Mario Suarez, che fino adesso non avevamo, poveretto, ancora visto. Ieri ha anche segnato contro Frosinone. Credo che su di lui sia in atto una manovra di recupero da parte del bravissimo Paolo Sosa, fin qui insieme a Sarri allenatore dell'anno, ma sono passate soltanto 11 giornate. Maurizio, stia lì, le faccio sentire una cosa divertente. Allora, il podio, la top 3 delle dichiarazioni, delle conversazioni domenicali, a partire da Mauro e Stefano Pioli. Io credo che Mancini sia l'unico grande allenatore davvero che abbiamo in Italia, perché l'Inter pensa di essere molto più forte di quello che è. Deluso sicuramente della prestazione, sì, ma stavo ascoltando con attenzione le parole di Mauro. Non credo che sia l'unico grande allenatore italiano, credo che abbiamo tanti grandi allenatori italiani, che non credo che delle parole di Massimo altri allenatori siano molto contenti, ma comunque... E quindi, secondo Mauro, Mancini è l'unico vero grande allenatore italiano perché è in grado di iniettare robuste dosi di autostima alla sua squadra. Poi, secondo gradino del podio per Sarri con Ilaria D'Amico. Sì, Sì, c'è sempre la rinuncia alla parafrasi, diciamo, da parte di Maurizio Sarri. Non c'è sottile dire è una dire. Parola che è una parola è di uso ormai. Così comune che ormai è vero che è di uso comune. Penso la dicano anche in Vaticano a questo punto. Questa era la signora d'amico che ha con grandissima eleganza un po' rimproverato Sarri perché aveva detto che è cazzato, parola sdoganata, la dicono anche in Vaticano, però Ilaria non ha gradito e l'ha fatto capire in maniera molto elegante. Terzo posto, primo se preferite, scegliete voi, Mihajlovic con Caressa. Gioca meglio il tuo Milan o l'Inter del tuo amico Mancini? Ma non lo cioè, so, ti diverti di più, ti sei divertito di più a vedere il tuo Milan stasera o il Milan Mancini ieri? Ma io mi diverto a vedere più mio Milan. Quando si vince. E questa era Mihajlovic. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo mettere un po' stare sulla stessa lunghezza d'onda del collegamento che mi ha preceduto, perché sull'anomalia di questo campionato che ci ha un po' spiazzato tutti. E meravigliosamente peraltro, eh? Lo so, però mi permetto di contraddirla su una sua dichiarazione che diceva che fosse piuttosto tranquillo da un punto di vista degli arbitri. Mi permetto di appuntare un attimo, perché forse perché è più tranquillo da un punto di vista degli arbitri perché non c'è mai di mezzo la Juventus. Forse se ci fosse stata in mezzo la Juventus, da un punto di vista degli arbitri non sarebbe stato poi questa così me l'aspettavo tranquillo. questa me l'aspettavo, ma è normale, eh? È normale. Grazie mille, complimenti per la trasmissione. Tra l'altro la Juventus c'è di mezzo, Maurizio, no? Mi sembra che dopo la partita con Sassuolo si sia lamentata. Sì, forse c'era anche un po' un rigorino all'inizio sullo 0-0. All'inizio, sì. Quindi vede che l'argomento c'è di mezzo. Forse lei dice è di mezzo dalla parte sbagliata, cioè da quella... sì, avrei preferito un campionato anche più polemico, forse. Anche questa l'avevo capita, Maurizio. Grazie. Cosa combina Mourinho? Ha aggiunto un'altra perla alla sua collana. Adesso, tra l'altro, ci sono anche notizie di oggi. Pare che siano altre due chance per lo Special One Dinamo Kiev in Champions, dove pure non sta andando bene perché è terzo, 4 punti in 3 partite dietro Porto e Dinamo Kiev, e poi lo Stoke in campionato. E poi, se vogliono cacciare Mourinho, è meglio che Abramovic si prepari a vendere un palazzo, perché il licenziamento di Mourinho costerebbe al Chelsea un sacco di soldi. Sentiamo. Sì. Ma io non sono Pirla. Io conosco Monaco del Tibet, Monaco Monte Carlo, Bayern Monaco, Grand Prix di Monaco. Se qualcuno Monaco vuole essere conosciuto perché parla di me, mi deve pagare. Negli ultimi 2 giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con 0 titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con 0 titoli. Conseguir la risposta che è perché? Perché? Perché Ovrebo? Perché Buzaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? I have nothing to say. Nothing to say about the game at nothing, all? Nothing. I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch? Nothing to say. I have nothing to say. The Costa clash? I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Do you not think it's time to have a chat to the fans just to give them some message, give them indication of your thinking? The fans are not stupid. Abbiamo preso la larga, eh. Siamo partiti da io non sono Pirla per arrivare all'ultimo nothing to say dopo la sconfitta con il Liverpool. Emanuele Corazzi che racconta il campionato inglese, quindi anche le partite di Mourinho naturalmente su Fox Sports. Ciao Emanuele. Ciao ragazzi, buongiorno. Come va a finire sta storia? 3-1 con il Liverpool, primo salto di Klopp. Secondo salto di Klopp perché aveva già vinto in Coppa, sì, di Lega contro il Bournemouth, però il primo in Premier League. Il primo in Premier League, 3 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, 11 punti, meno 14 da City Arsenal. Questa è la situazione di José Mourinho che ha nothing to say. Guarda, noi il lunedì sera facciamo alle 20 la trasmissione con Paolo Di Canio, sì, House of Food, quindi stamattina abbiamo fatto la riunione insieme a Paolo e abbiamo provato a elencare tutti i punti da toccare, tutto ciò che va messo sulla bilancia nell'analizzare la situazione di Mourinho. Ti dico cosa siamo arrivati come conclusione, che è un po' anche la conclusione di Paolo, se vogliamo. Lui ha detto: è come una storia d'amore che è finita. L'empatia tra Mourinho e i giocatori non esiste più. Quindi puoi fare qualsiasi cosa, ormai, così come nel rapporto tra due partner, quando si è rotto definitivamente qualcosa è molto difficile ricostruirlo. E lui in questo momento evidentemente ha a che fare con una serie di giocatori, non sappiamo quanti, che però non ci sono più, non ci sono con la testa, perché poi le gambe non vanno perché non va la testa. Però ha sostituito ancora Hazard dopo un'ora di gioco, miglior giocatore della Premier dello scorso anno, 0 gol quest'anno, sostituito dopo un'ora di gioco. Ha messo in panchina Fabregas, Matic, altra colonna dell'anno scorso, spesso in panchina, una volta l'ha anche messo in campo e l'ha levato dopo pochissimi minuti. Ivanovic non gioca più, John Terry, vabbè, lì per altri motivi, fa fatica a giocare. Evidentemente si è confermato quell'allenatore che ti chiede tutto, sì, ottiene tutto, però forse a un certo punto ti ma un anno è poco, però normalmente sono tre per allenatori così, facciamo due nel caso di uno spremiagrumi come Mourinho, però dopo una sola stagione spaccare davvero tutto in questa maniera mi sembra curioso e mi lascia anche pensare al fatto che Abramovic stia riflettendo sul da farsi, che la società Chelsea stessa sia un po' un casino. Guarda, allora, innanzitutto il Chelsea non ha una figura che in Inghilterra in genere è importante, quella del chief executive, esatto, che è colui che va a mediare tra l'allenatore, esatto, e il giocatore. E lui non ce l'ha più dall'anno scorso, quindi mi chiedo, è stato Mourinho a dire voglio avere il controllo totale, quindi ad eliminare questa figura, dato che in precedenza nella sua avventura, nella prima avventura al Chelsea, aveva anche lì avuto dei problemi con le figure di Abramovich, mi ricordo con Frank Arnesen. Quindi questa già insomma a livello di società può essere una pecca affidarsi così tanto ad una persona, e più oggi penso che mentre quest'estate o in primavera alcune società come il City possono aver pensato ad un piano B prima di rinnovare Pellegrini, il Chelsea non ci ha mai pensato, quindi arriva in questa situazione completamente alla sprovvista, perché magari Guardiola si è già accordato col City, dico magari Ancelotti si è già accordato con il Bayern, sicuramente Klopp è l'allenatore del Liverpool in questo momento, vuoi perché Mourinho non guadagna poco, vuoi perché il Chelsea dovrà ampliare lo stadio. Allora, se mi confermi che se lo licenziano gli devono dare 37 milioni di sterline, che sono quelle chiamate dal suo contratto, giusto? Lui ha firmato un contratto quest'estate da 8 milioni e 8 per 4 anni. E in realtà lì poi bisogna andare a vedere bene, perché anche di questo ne parlavamo con Paolo, quale clausola inserisce nel contratto. Questo credo sia difficile farlo emergere, sì. È una cosa che sapranno Mourinho e Abramovic. Comunque si tratta di una montagna di quattrini. In un modo o nell'altro, anche ci fossero clausole strane, si legge di una clausola da 9 milioni e mezzo di sterline, cioè una sola annualità. Però sono tutte da prendere col beneficio del dubbio. Certo è che se vuoi licenziare Mourinho lo copri d'oro. Certo è che non riesco a pensare come il Chelsea. Un giocatore avrebbe anche detto in questo momento è meglio perdere. E io non faccio fatica a crederlo, che siano uscite ci siano questi pensieri dentro lo spogliatoio. Mi sembra una situazione abbastanza senza via d'uscita. Sì, è questo che sembra, cioè non si vede la luce, proprio, ma fondamentalmente per quel motivo, perché comunque tu guardi in faccia i tuoi giocatori, cerchi di capire che cosa hanno, cerchi di capire come tirare fuori il meglio da loro. Adesso ieri sera Mihajlovic ha fatto quasi autocritica dicendo che forse all'inizio aveva chiesto troppo a questo gruppo di giocatori, no? Però sei in una situazione iniziale in cui stai cercando di stabilire la tua empatia con il gruppo per capire come tirare fuori il meglio da loro. L'impressione è che lui sia arrivato a un punto nel quale quasi fa fatica, ma è proprio una questione umana, cioè provate a pensare anche voi, ripeto, l'esempio del partner forse è quello più estremo, però magari anche in un... No, ma anche Mourinho è estremo, Emanuele, anche Mourinho è estremo, è sempre stato così, i suoi giocatori o lo amano alla follia e sono pronti a buttarsi dentro al fuoco per Mourinho, e l'abbiamo visto tante volte non solo all'Inter, oppure quando questa relazione finisce non sono più disposti a nulla per lui e allora è finita. E io credo che in questo caso sia finita: o gli esce il colpo di genio, che non può essere il nothing to say dell'altro giorno, oppure Capello forse arriverà ad allenare a Stamford Bridge. Così si sente, si scrive, ma sono solo lo scrive oggi Stanchi, ma anche perché per la prima volta Mourinho sembrava veramente aver voglia di fermarsi in una realtà, no? Lui ha questo DNA da conquistatore portoghese, per cui dal Portogallo all'Italia, dal Portogallo all'Inghilterra, dall'Inghilterra all'Italia, poi alla Spagna, sembrava sempre irrequieto. Qui invece io credo che lui volesse veramente provare a costruire qualcosa alla Lucca. Sì, ma l'aveva anche detto. Devi modificare un po' te stesso, non puoi applicare gli stessi metodi che hai sempre applicato quando hai un progetto un corto raggio. Certo. Lui non è riuscito in questa evoluzione. Mourinho non è un allenatore da lungo periodo, a meno di non cambiargli la squadra ogni due anni in maniera totale, e credo che questo non possa permetterselo neanche Abramovic. Emanuele, io ti ringrazio, alla grazie prossima, buon lavoro, buon lavoro. Vediamo come finisce la Mourinheide, meglio. 800 24 0024, torna agli ascoltatori. Leonardo da Verona, buongiorno. Buongiorno, anche io volevo tornare un attimo sui torti arbitrali che ho sentito poco fa. Per esempio, il signor Sarri si è lamentato del rigore, possibile rigore di domenica, no? Sì. Col gesto. Ma ha dimenticato di dire che tre giorni prima, la settimana prima, con il Chievo c'era il braccio di Higuaín in area. Lei esatto, e anche tempo prima a Napoli, con l'Empoli, il gol di Saponara annullato sullo 0-0 e dopo del Milan ma si sorprende lei? È una cosa normale per tutti gli allenatori, da Mourinho in giù, passando per Mancini e per Garcia e per tutti quelli che vuole, avere una memoria cortissima, no? E ricordarsi soltanto i torti subiti, mentre degli altri non parlarne mai, come cantava qualcuno. Però lei ha detto poco fa, è lì che ho deciso di telefonare, dicendo che quest'anno gli arbitri sono stati bravi con le grandi. Il Milan con il Sassuolo, col Chievo, ha avuto due vittorie che erano almeno un pareggio e una sconfitta con Sassuolo, e dopo si ritrova a vincere a Roma con la Lazio anziché mandare l'allenatore e tutte le polemiche che sarebbero nate se l'arbitro fosse stato giusto. E il Chievo con la Juventus sul 1-0, il 2-0 che gli hanno tolto regolare, sì, e dopo la Juve ha pareggiato. Allora possiamo dire tutte le cose, non soltanto a favore delle grandi ma anche la Juventus ha avuto modo di lamentarsi un pochino dopo la gara con il Sassuolo. Insomma, che la perfezione assoluta non esiste. Io sto facendo un discorso complessivo. Fin qui grandissimi episodi, grandissime polemiche, compreso l'episodio di ieri a Genova, era rigore, però insomma, si può sopravvivere anche senza un rigore di quello lì, senza scatenare un putiferio. Io dico che fin qui non abbiamo avuto fortissime polemiche arbitrali. Poi è chiaro che episodi come tutti quelli che lei ha citato sono fisiologici nel gioco. Non stare lì a discriminare in questo momento, almeno tra grandi e piccole, perché, ripeto, grandi torti non mi pare di ricordarne, quantomeno insomma cose decisive, determinanti, di quelle che fanno discutere e parlare per lungo tempo. Enrico Siena, buonasera. Dunque, niente, io siccome sono di Siena, quindi spesso e volentieri vado a vedere la Mezzana e non il calcio, però in tempi non sospetti io l'ho ricordato a lei di parlare basket, perché amorevolmente le lo dico, di calcio si capisce poco lei. Si capisco poco, quando dice, quando dice la difesa è l'Inter è assestata, e non è vero, è Andanovic è assestato, perché se lei si ricorda i primi anni 80, gli ultimi anni 80, primi anni 90, la difesa del Milan, il portiere era sempre senza voto, sia Galli che Rossi, quelle sono difese assestate. Amico mio, ma è mica facile, cioè, a difesa assestata quando c'hai Maldini, Baresi, Costa Curta e Tassotti, la assestiamo facile, no? Perché hai grandi interpreti e perché di lì non passa nessuno comunque, ma è un po' difficile avere una difesa con il portiere senza voto. Possiamo dire allora che la difesa della Juventus ha funzionato per 4 anni, ha vinto 4 scudetti e non pigliava gol mai perché Buffon è un fuoriclasse? Allora dobbiamo dire anche questa cosa. Io non credo che sia la condizione di Handanovic a determinare il successo della difesa dell'Inter. Non è, l'Inter non mi rifiuto di pensare sia la difesa meno battuta del campionato perché ha un portiere che para, sennò questo mi sembra davvero un discorso troppo semplicistico. In realtà l'Inter ha sistemato bene il suo reparto, è chiaro che qualcosa subisce perché pure questo è fisiologico, perché del Milan di Sacchi con Sebastiano Rossi che prende senza voto tutte le volte, vabbè, ce n'è uno e non è certo l'Inter. Io continuo a considerare, lo ripeto, l'Inter un outsider al momento, insieme alla Fiorentina un outsider per lo scudetto, e continuo a vedere due favorite che sono Roma e Napoli. Questo è il mio pensiero, ampiamente criticabile, ampiamente opinabile, cosa che ci divertiremo a fare. Chi ha vinto invece lo scudetto? Chi ha vinto un altro campionato? Il Boca. Boca campione! Señoras y señores, Boca campione del football argentino! Boca se queda con el campeonato, se queda con el título! Después de algunos años, Boca se queda con el campeonato. Después de cuatro años, Boca se queda con el título. El abrazo interminable de Carlos Tevez. ¿Acaso el símbolo, el líder para este título que acaba de conquistar el equipo del Vasco Arruabarrena? Boca campeón, señores, del fútbol argentino. E quindi Carlitos è andato via, ma ha vinto un altro titolo e sono per lui personalmente 5 consecutivi. Gianpiero Firenze, buongiorno. Buonasera, buonasera, grazie di avermi richiamato. La mi tiri pure le orecchie, eh? Non c'è problema. No, assolutamente. Ho fatto una telefonata e faccio due piccole considerazioni su quello che ho sentito. Intanto pago a Sky un abbonamento da 10 anni e aver sentito queste tre perle tra Mauro eccetera già mi fa capire perché ho sbagliato qualcosa nella vita. Seconda cosa, perché veramente gente proprio da seconda cosa, che gli juventini tirino su il capino e cerchino il rigorino a Sassuolo dopo che 32, 34, 39 scudetti, perché tanto ogni tanto scrivono un numero come gli pare a loro. Si è perso il conto, ora la metà è buona, fine del discussione e polemica. Volevo ringraziare perché per la prima volta su una radio a livello nazionale ho sentito la parola Fiorentina. È incredibile questa cosa. Fiorentina è una squadra che sta giocando un calcio strepitoso, che ha speso un quinto di quello che hanno speso tutte le altre squadre, che è in prima in classifica da più di un mese, tranne questo periodo di questa settimana in cui si è perso due partite con le squadre considerate più forti. Il primo tempo il Napoli non sapeva nemmeno se c'era il pallone in campo, hanno chiesto dove l'era, e con la Roma che ha fatto un catenaccio terrificante si è avuto il 71% di possesso palla. Fine di evento. Quindi che sia un outsider lo sappiamo anche noi, e nessuno a Firenze pensa di vincere lo scudetto, perché ma noi ci Giampiero, nessuno in Italia dice la Fiorentina non è quello che ha detto lei, nessuno in Italia lo pensa, la Fiorentina è quella che lei ha detto e fa bene a ricordarlo, ma su queste frequenze però la Fiorentina la sentite tutti i giorni ormai da mesi, quindi dai, torniamo domani alle 14, ma ci vediamo se ne avete voglia in TV questa sera, Gazzetta TV, Lo Spogliatoio, ore 21, vi aspetto lì. Arrivederci ragazzi, ciao!